e sai dirmi allora che si fa. No, se fai così no, non va. Vuoi finirla tu coi capricci di la Marie? Vedi belle assai più di te, già ce n'è una gran quantità, e per te così certo non morirò. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, non sono geloso, Tina Marie. Tina, Tina Marie, no, no, di te non son geloso, Tina Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, io sono spiritoso, Tina Marie. Tina, Tina Marie, e perciò t'amo ancor piccola vipera, Tina Marie. Oh, oh, ah, ah. Beh, puoi fare ciò che vuoi tu, tu puoi dir che non m'ami più, oh, oh. Ma io voglio te, non si scappa, Tina Marie. E se pure il cuor soffrirà, no, nel cuor l'amor non morrà, oh, oh. Sorridendo di sempre ti canterò. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, non sono geloso, Tina Marie. Tina, Tina Marie, no, no, di te non son geloso, Tina Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, io son spiritoso, Tina Marie. Tina, Tina Marie, e perciò t'amo ancor piccola vipera, Tina Marie. Oh, oh, ah, ah. Beh, sai dirmi allora che si fa. No, se fai così, no, non va. Oh, oh. Vuoi finirla tu coi capricci, Tina Marie. Vedi belle assai più di te, già ce n'è una gran quantità, oh, oh. E per te così certo non morirò. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, io sono spiritoso, Tina Marie. Tina, Tina Marie, e perciò t'amo ancor piccola vipera, Tina Marie. Tina Marie.